La contessa di Dia si fu moglier d'un Guillem de Pietius, bella donna e buona, e s'innamorò d'un rambau di Aurenga e fez de lui mantas boas cansus, che vos oirès et entendere aissi. Blanca fe